Giovedì 22 novembre 87900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 per vedere tutta la scaletta con gli ospiti, le uscite in sala, i film che vi suggeriamo tra quelli già in programmazione ai cinema e poi quelli in televisione e poi gli appuntamenti della settimana e oltre al link per riascoltare la puntata precedente, le puntate del 2012, la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info alla voce trasmissioni visionari. Allora diamo inizio alla carrellata di ospiti, cominciando con il Torino Film Festival, 30ª edizione. Emanuela Martini, vice direttore della 30ª edizione del Torino Film Festival, che sarà in tre luoghi, almeno per quanto riguarda le proiezioni: Cinema Massimo, Reposi e Lux, dal 23 novembre, quindi domani, fino al 1 dicembre. Emanuela, ben ritrovata per l'ennesima volta, ogni anno ci mettiamo in collegamento con te. Come va? Stanchi ma felici, bisogna dire così. Allora, un numero a tutto tondo, 30ª edizione, sì. Cosa vedremo? Dunque vedremo, come sempre, il concorso lungometraggi, 16 titoli, quasi tutti opere prime, cioè un paio di opere seconde e una sola opera terza. Poi naturalmente ci sono gli altri tre concorsi, concorso internazionale documentari, concorso documentari italiani e concorso cortometraggi italiani. Poi c'è l'enorme sezione Festa Mobile, che è la sezione in cui mettiamo dentro tutti, grosso modo, tutti i film che ci sono piaciuti in giro per il mondo o anche inediti ovunque, che però per una serie di motivi non riuscivano ad entrare in concorso. E questa va da film di impianto molto grosso, tipo Anna Karenina di Joe Wright, che è quello che ha fatto notizia dappertutto, che è una trasposizione con Keira Knightley e Jude Law, che è una trasposizione alquanto inaspettata, perché è scritto da Tom Stoppard, che oltre ad essere un grande commediografo è anche uno sceneggiatore molto astuto e molto intelligente. Per dirne la cosa più famosa e forse più vicina a Anna Karenina che ha fatto come sceneggiatura è Shakespeare in Love, per cui ha fatto un'operazione pop, però nello stesso tempo molto raffinata, perché lo ambienta tutto in un teatro, con uscite naturalmente, uscite però pensate teatralmente, ed è molto divertente. Vada, questi film molto grossi, Festa Mobile è un film anche piccolissimi, c'è un film tedesco che racconta il primo incontro e la nascita di una storia d'amore tra due ragazzi che si chiama Silent Youth, c'è un film cileno piccolissimo che si chiama De Jueves a Domingo, da giovedì a domenica, che racconta un viaggio di una famiglia, padre, madre e due bambini, attraverso la campagna cilena quando la famiglia è sull'orlo di una crisi. C'è un delirio assoluto, che è il nuovo film interpretato e scritto da Slavoj Žižek, l'accademico pazzo, cioè filosofo teorico, che però è appassionato di cinema e che 4 anni fa aveva fatto un film che è diventato un piccolo cult, che si chiamava A Pervert's Guide to Cinema, la guida del pervertito al cinema, fatto tutto di spezzoni meravigliosi, e lui che racconta, in quello raccontava sostanzialmente la psicanalisi e la sessualità come passavano soprattutto attraverso i film per esempio di Hitchcock e Lynch, e qui invece ha fatto Pervert's Guide to Ideology, in cui racconta invece come nei film dagli anni 70 in avanti sia passata l'ideologia. E questi di Žižek, che è popolarissimo nel mondo universitario e non solo, sono cose molto divertenti, perché lui, detto molto francamente, non se la tira in realtà, per cui si mette sul set di quel film del quale sta per parlare, l'ho ricostruito, e poi fa vedere questi fantastici spezzoni. C'è, ecco, un'altra cosa abbastanza folle, analoga tutto sommato, che è Liar's Autobiography, che è la trasposizione cinematografica della falsa autobiografia scritta un po' prima di morire da Graham Chapman, che era il sesto Monty Python, appunto, che era dichiaratamente falsa, lui morì nel 1989, e che è stata trasposta in film attraverso il lavoro di 15 diversi studi di animazione, quindi con una gamma tra l'altro molto vasta di animazioni, in cui naturalmente ci sono anche le voci, le facce e i disegni di tutti quanti Monty Python e tutta la gente che ha lavorato con loro. Rispetto al programma, Emanuela, vedo una buona presenza di documentaristi italiani che noi seguiamo sempre con particolare attenzione. Mi sembrano diversi lavori degni di interesse. Sì, c'è la sezione specifica di concorso del documentario italiano. Ce ne sono anche fuori concorso, per esempio in Festa Mobile c'è un piccolissimo documentario che però nel momento in cui lo giravano fece abbastanza scalpore, che è L'ultimo pastore di Marco Bonfanti, che è la storia di questo vero pastore che a Natale l'anno scorso ha portato l'intero gregge in Piazza Duomo a Milano perché voleva far vedere le pecore ai bambini. Ed è un documentario bizzarro, appunto, ripeto, è molto piccolo, ma è curioso perché riesce a delineare molto bene i personaggi che sono veri, che però sono anche, come capita spesso tra i protagonisti dei documentari, sono anche veri e propri personaggi. Poi per esempio c'è la sezione Rapporto confidenziale, che ogni anno è tematica, ogni tanto è dedicato ad autori poco noti in Italia, come è stato l'anno scorso per il giapponese Sion Sono, oppure a qualche tema, e quest'anno è dedicato al tema ossessioni e possessioni, cioè praticamente alle nostre paure, le nostre insicurezze e a come tendiamo a materializzarle, come tendiamo noi e il cinema ad esorcizzarle e anche a compensarle. Ci sono all'interno della sezione alcuni horror, tra l'altro uno scritto e prodotto da Joe Lansdale, che è lo scrittore che fu giurato qui 2 anni fa e che torna in veste di produttore, però ci sono ovviamente anche alcuni psycho thriller, ma ci sono anche film completamente diversi, ci sono delle commedie o commedie drammatiche su varie forme di addiction, c'è un curioso prison movie diretto da una signora che si chiama Jules Stewart, che è la mamma della Kristen Stewart di Twilight, e c'è il bellissimo ultimo film di Sion Sono che si chiama Land of Hope, in cui lui racconta, cambiando il nome al villaggio, attraverso un villaggio fittizio inventato, racconta gli esiti psicologici, cioè la disgregazione delle famiglie, lo sbandamento, la tristezza del disastro di Fukushima. Senti, ha fatto un qualche clamore la presa di posizione di Ken Loach, che ha solidarizzato con i lavoratori e le lavoratrici di una cooperativa alla quale sono stati esternalizzati i servizi di pulizia e sicurezza del Museo Nazionale del Cinema. Voglio sapere, ecco, tu cosa ne pensi in proposito? Beh, sai, la posizione del festival non può altro che essere la posizione del museo, visto che il festival dipende dal museo, cioè il festival c'entra relativamente poco, anzi dal punto di vista formale, cioè della posizione dei lavoratori, della posizione della cooperativa Rear, della posizione del personale, il festival non c'entra nulla perché tutto questo si concentra, cioè l'ente emanatore di tutto è il museo. Detta molto francamente, credo che Loach avrebbe forse fatto un miglior servizio anche alla causa di questi lavoratori se fosse venuto qui e se ne avesse parlato insieme a loro e con la stampa e con tutti. lo dico in maniera molto brutale, la notizia sarebbe durata di più forse, se Loci fosse venuto, fosse stato qui 2 o 3 giorni, avesse incontrato i lavoratori, avesse incontrato tutti quanti, sarebbe stata una cosa forse un pochino più concreta. Sì. Capisco. Senti Emanuela, per tutte le informazioni c'è il sito internet per quanto riguarda il programma. C'è guarda, non riesco a ricordare, Torino Film Fest. Su un motore di ricerca è piuttosto facile. Sì. Non c'è solo il sito, c'è il sito internet ovviamente, in cui c'è tutto il programma che è già online da tempo, poi vabbè, in città ci sono le informazioni dappertutto, e da quest'anno siamo anche, il festival è anche su Facebook e Twitter, ovviamente non c'è linkato l'intero programma perché sarebbe impossibile, però c'è anche questa opportunità di cercarlo su Facebook e Twitter. Bene, allora un abbraccio e a risentirci alla prossima a questo punto. Speriamo. Ciao Emanuela. Ciao, grazie, ciao. Emanuela Martini, vice direttore della 30ª edizione del Torino Film Festival, da domani 23 novembre al 1 dicembre. Per comunicare con noi il numero per gli SMS è 342-3574-357. Per inviarci posta elettronica l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Ritroviamo Felice K, in questo caso regista del documentario Amleto alla seconda, presente alla 30ª edizione del Torino Film Festival. Felice, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E intanto ti chiedo, non sei primo a queste operazioni che vedono il teatro e le nuove tecnologie in una fusione che crea dei prodotti nuovi, delle opere interessanti da più punti di vista? Sì, diciamo la scommessa è quella di provare a fare un passo ulteriore nella ricerca di come rappresentare il teatro e rappresentare con un altro linguaggio, e finora gli esperimenti non si erano mai confrontati con il 3D e mi sembra che questa sia una chiave davvero importante, e ovviamente quando si porta sullo schermo, che sia il piccolo schermo della TV o il cinema, un materiale che viene da esperienze teatrali, uso dei termini generici perché arrivano e dal teatro partono tante cose interessanti che hanno cinema e televisione e adesso anche il web, e dico che quando questo accade di fatto ti scontri con la piattaforma, lo schermo, non hai la profondità sia in senso metaforico che in senso fisico, e il 3D secondo me è una strada interessante per recuperarla, e ripeto anche qui non tanto perché ricrea dei volumi, perché poi questi volumi sono sempre vuoti, sono sempre dei fantasmi, ma proprio perché metaforicamente recuperi delle prospettive nuove per proporre il teatro e i contenuti del teatro, che in questo caso poi continui il suo testo, la sua performance live è davvero straordinaria. Mi sembra insomma che abbiamo fatto un lavoro interessante. Uno spettacolo che vede protagonista Filippo Timi, ecco, il lavoro come si è articolato? Nel senso, è lo spettacolo integrale o è unito a più cose? Dunque, è lo spettacolo integrale, ovviamente non è solo lo spettacolo con il pubblico presente nella sera, perché abbiamo lavorato in tutto 2 giorni per le riprese, e oltre alle 2 serate abbiamo lavorato anche al pomeriggio con punti di vista e, come dire, tecniche tipo uso della Steadicam che non sarebbe stato conciliabile con lo spettacolo vivo, e diciamo appunto che è difficile definirlo un film, ma che troppo poco forse dire documentario, perché il documentario, certo, insomma, si limita sostanzialmente a riprendere qualcosa che accade in alcuni casi. Con la televisione, con il cinema, questo è successo. Ci sono delle cose che a teatro non si vedono, cose che con Filippo abbiamo concordato e abbiamo provato a fare, e tenendo conto appunto della tecnica 3D pone una serie di domande ma dà anche una serie di risposte. Faccio un esempio per tutti: l'idea di movimento usando la tecnica 3D cambia molto, perché hai anche un movimento, come dire, verticale in profondità. Quindi ad esempio l'uso dei movimenti di camera va rivisto e ripensato con questo. Mm-hmm. A maggior ragione concetti proprio tecnici da profondità di campo, con la 3D e il cinema 3D sono, come dire, completamente da rivisitare rispetto a quella che nella, insomma, nel cinema è fondamentalmente poi la profondità storica, quella che ci riportiamo dal chiaroscuro di Leonardo da Vinci ad oggi. Quindi è interessante perché hai degli strumenti nuovi sui quali va costruito un linguaggio. Finora anche a cinema non si è visto tantissimo nel 3D, ovviamente Scorsese rimane finora, credo, il punto di riferimento vero, per il resto tanto cinema d'animazione, tanto cinema, come dire, digitale fatto al computer, e questo invece di utilizzare il teatro come fonte mi sembra una strada da percorrere. Senti, io ovviamente, non voglio dire che ovviamente tutto questo si fa con la complicità di un attore o di un autore come Timi, che si mette in gioco e prova, insomma. Senti, rispetto alle peculiarità del teatro e del cinema, ecco, pensando alla dimensione 3D e alla posizione fissa dell'osservatore di uno spettacolo di teatro, oltre, ecco, alla profondità e ai cambi di prospettiva, quali sono le differenze sostanziali? Ma dico appunto, noi abbiamo usato Steadicam, abbiamo usato un cartello, quindi comunque hai delle telecamere che ti cambiano il punto di vista, la prospettiva all'interno della stessa scena. Mm-hmm. Ma devo dire che anche proprio alcuni concetti, ad esempio quello dell'uso del colore, perché come tutti sanno siamo ancora costretti a vedere il 3D con gli occhiali, e gli occhiali, a seconda che siano attivi o passivi, creano sostanzialmente un filtro ulteriore, quindi per esempio il controllo della qualità cromatica finale che vede lo spettatore è abbastanza, come dire, e non è facile definire, perché dipende molto anche proprio dalle caratteristiche tecniche di ogni singolo spettatore. Mm-hmm. Perché gli occhiali appunto creano un filtro che sono polarizzati, quindi creano anche degli effetti diversi. Sicuramente la possibilità di avere questo corpo in tutto il suo volume in scena, e nel caso poi di questo spettacolo molto fisico, molto, molto potente, proprio per la relazione anche degli attori in scena, che insomma è importante proprio per la drammaturgia, è chiaro che sono un valore aggiunto che il 3D esalta. E insomma, io ho fatto anche altre esperienze, ho fatto delle riprese, diciamo, più documentaristiche di Mistero Buffo con Dio Fo, e lì la sensazione era proprio di essere a teatro. Mm-hmm. Qui invece no, qui sicuramente è più spostato verso il linguaggio del cinema il risultato, credo. Certo. Senti, una curiosità. Pronto? Sono abbastanza. Dico, queste categorie sono sempre di più vaghe. Sì. Cinema, televisione, la multimedialità, insomma, si stanno, se pensi alle installazioni, cioè si sta tutto, certo, fondendo sempre di più. Volevo chiederti una curiosità tecnica, lo spettacolo l'avete ripreso a blocchi oppure è stata una ripresa unica? Dunque, purtroppo avevamo veramente pochissimo tempo, perché in tutto abbiamo girato le 3 ore delle 2 serate con il pubblico e poi abbiamo girato in tutto altre 3 ore, quindi insomma rispetto ai tempi, alle risorse, ai mezzi del cinema, insomma, non avevamo tanto tempo. Quindi abbiamo fatto le 2 serate filate e poi abbiamo fatto alcuni blocchi, là dove ci sembrava che il linguaggio cinematografico vero e proprio potesse essere più efficace per rendere lo spettacolo quindi più forte. Certo. Ci sono delle cose invece in cui si azzera completamente anche il linguaggio della TV, e sono delle citazioni proprio, come diciamo, metalinguistiche. Come sapete, Amleto è uno dei testi fondamentali in cui nasce l'idea di teatro nel teatro, con i comici a corte. E allora lì la scelta è stata radicale, cioè di tenere la camera fissa, sostanzialmente non usare neanche, azzerare anche il linguaggio, come dire, più basic, quello televisivo, quello, mm-hmm, del montaggio. La camera è fissa e tutta la scena del teatrino a corte e proposta esattamente come se tu fossi a teatro da un unico punto di vista. E poi vabbè, non voglio svelare tutto, però ci sono anche una serie di scelte che sono coerenti in questo caso con il linguaggio di Shakespeare, che inventa questa idea del teatro nel teatro, nell'altro caso con il linguaggio dello spettacolo teatrale di Tini, che gioca a entrare e uscire dalla messa in scena. E diciamo c'è un analogo anche nel linguaggio che ho utilizzato io poi per rappresentarlo. E tutte queste cose qui poi valgono, secondo me, poco. Credo che la visione, certo, insomma, sia interessante. Allora, il 26, 27, 28 e 29 novembre al Torino Film Festival, e poi che ne sarà di Amleto? E poi iniziano ad arrivare delle richieste. Diciamo che questa cosa qui c'è un po' esplosa in mare, perché per me era, diciamo, un progetto di sperimentazione con il centro di ricerche della RAI di Torino, con i centri di produzione di Milano e Torino, e invece, insomma, di fatto tutti ce lo chiedono per il circuito cinematografico, c'è grande interesse, vedremo. Ecco, diciamo, non siamo preparati a gestire la distribuzione. Lo spettacolo andrà in onda nella versione 2D su Rai 5 il 19 gennaio e si lega un anniversario, i 40 anni del Teatro Franco Parenti, dove è stato prodotto, e che si lega alla storia del Teatro Franco Parenti, perché 40 anni fa il Teatro Franco Parenti si è proprio inaugurato con un Amleto riscritto da Testori e interpretato appunto da Franco Parenti con la regia di André Rousseau. E quindi è interessante come ci sia un nuovo autore, insomma, secondo me vedremo se è importante quanto Testori, però sicuramente uno degli autori più interessanti della generazione dei 30-40 anni italiani, che riscrive l'Amleto, quindi mi sembrava anche bello celebrarlo con un documento, con un film, insomma, chiamatelo come volete, come questo. E Rai 5 riproporrà le due cose assieme. La serata del 19 gennaio sarà appunto dedicata al Teatro Franco Parenti con l'Amleto di Timi in prima serata, e a seguire poi l'Amleto di Testori, interpretato appunto da Parenti con la regia della Sciammà. Bene, sicuramente si potrà vedere in TV. Bene, Felice, allora io spero anche di riaverti presto ospite al Radioteatro. Nel frattempo un abbraccio e in bocca al lupo. Va bene, grazie molte, grazie agli spettatori, insomma, che fanno una parte del programma. Ciao Felice, a presto. Ciao. Felice Cappa, regista del film documentario, insomma, Amleto alla seconda. Ecco noi Alessandro Agostinelli, ci sei? Sì, eccoci. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora Alessandro, oltre al Festival del Viaggio a Pisa, ti sei dilettato anche con la forma video, un documentario che immagino parlerà di viaggi, Tra Samarcanda e il West, questo è il titolo. Di cosa si tratta, Alessandro? Beh, è un documentario che cerca di affrontare il tema non solo della Via della Seta in quanto uno degli itinerari di viaggio anche turistico ormai tra i più seguiti, però anche la questione della geopolitica di quel posto e quindi tutti i problemi che nascono diciamo dalle guerre, anche le contrapposizioni che ci sono in Asia centrale. Ecco, che situazione c'è, visto che insomma è raro anche sentirne parlare? Beh, è raro sentirne parlare, sai perché? Perché in realtà tutti quanti più o meno si sono, occupati dell'11 settembre, no? Come se nel 2001 ci fosse stata la vera svolta del mondo, in qualche modo. In realtà tutto quello che noi viviamo oggi sembra più che altro nato alla metà degli anni 90, quando sono stati scoperti gli immensi giacimenti di gas proprio in Asia centrale, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan e tutta quella zona, diciamo, che è vicina ai famosi stati canaglia, insomma l'Iran è lì, il Pakistan pure. E quindi questa zona dell'Uzbekistan che io insieme ad altri, alcuni storici, antropologi, abbiamo attraversato per un viaggio specifico di raccolta informazioni, dati su quel paese, ha prodotto questo documentario. Oh, immagino che potrebbe essere valida l'equazione secondo la quale più sono ricchi i giacimenti e più gli stati sono canaglia, o sbaglio? Sì, non è tanto questo, sai, le posizioni sono difficili, come dire, da capire. Come si fa a capire, anche dal punto di vista europeo, uno stato come l'Uzbekistan, dove, diciamo, la democrazia è in parte una democrazia, come dire, di superficie, perché lì ormai Islam Karimov governa ininterrottamente da quasi 30 anni. Diciamo che lui è stato l'ultimo segretario del PKUS, del Partito Comunista Uzbeko, e quindi dalla fine dell'Unione Sovietica in avanti lui ha continuato a mantenere, come dire, i rapporti di forza e a tenere il potere in quel paese. Mm-hmm. E poi che ha fatto? Prima in accordo con la CSI, e quindi, come dire, la Confederazione della Russia Democratica, ha cercato di mantenere rapporti di commercio economici. Poi, siccome con l'arrivo di Putin molti anni fa, diciamo che il Kazakistan gli è stato preferito, allora nel 2001 Karimov ha detto: ok, allora darò le basi aeree per l'appoggio agli americani nella guerra in Afghanistan. Poi però si sono un po' litigati. In realtà il vero punto, al di là di quello che poi magari tra qualche minuto, se vuoi, potremmo affrontare, che è il tema più, come dire, storico-turistico della Via della Seta, il vero problema è questo, che l'Europa è la grande assente. Senti Alessandro, immagino, parlando della Via della Seta, immagino che il viaggio sia stato molto lungo e abbia attraversato territori di più differente formazione, di più differenti caratteristiche. Sì, siamo in Asia centrale, siamo in una zona che è quasi a due passi dalla Cina. Da Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, nell'estremo orientale del paese, vediamo la catena dell'Hindu Kush, quindi tutta una zona, come dire, epica per certi versi. E poi in Uzbekistan chi c'è? C'è stato Tamerlano e poi Genghis Khan, e quindi tutto quello che ai nostri occhi, come dire, un po' appannati dalle varie invenzioni storiografiche occidentali, come dire, tutto quello che sembra un po' in parte barbaro, in parte terribile, no? Non democratico. In realtà la storia insegna che, voglio dire, il commercio lì è stato fiorente, ma perché era un commercio di Stato, come lo era nell'Impero Romano in precedenza, e continuato a essere anche in quelle zone. La Via della Seta oggi sembra più diventata in parte la via del sintetico, nel senso che quella che i francesi chiamano mondializzazione e noi globalizzazione, ha portato il poliestere anche da quelle parti. Come dire, se uno va nei mercati dei turisti si trovano alcuni oggetti dell'artigianato locale, ma se, come abbiamo fatto noi e come nel documentario Tra Samarcanda e l'West è ben documentato, andiamo a visitare i veri mercati, quelli del popolo uzbeko, ci accorgiamo che, come dire, la Cina la fa da padrone, ma non più con la seta, con il sintetico. Questo è un aspetto. L'altro aspetto importante è che sono posti strepitosi, soprattutto steppe, deserti, e poi c'è stata tutta la questione della forzatura sovietica, nel senso che lì dovevano coltivare il cotone, quindi per questo tipo di monocultura poi hanno creato un dissesto ambientale idrogeologico, perché hanno quasi prosciugato il lago d'Aral, sì, che è nell'estremo occidentale nord, e anche lì ci sono tutta una serie di problemi. Il paese è bellissimo, si può in qualche modo visitare moschee, madrasse e tutto quello che nel nostro immaginario è legato, diciamo, anche aspetti di monumentali storico-artistici fantastici. Mi premeva però anche ritornare sul tema dell'attualità, se vuoi, per sì, un minuto. Certo, anche perché una cosa che volevo chiederti è che, come Festival del Viaggio, di cui tu sei l'anima di questa avventura, di questo esperimento che è il Festival del Viaggio di Pisa, vi siete avventurati in un progetto che vede la diffusione, la pubblicazione di documentari di viaggio. Sì, allora, una precisazione: da 3 anni il festival si è spostato a Firenze, ma comunque sì, certamente siamo ancora in Toscana. Stiamo non solo con il festival, ma con l'associazione che abbiamo senza fini di lucro, che si chiama Società Italiana dei Viaggiatori, stiamo facendo delle collaborazioni soprattutto con l'Espresso, e abbiamo messo in piedi una specie di progetto che si chiama Espresso Doc, che è sul sito web dell'Espresso, dove presentiamo 11 documentari dall'Italia e dal mondo, non solo su temi di viaggio, ma inchieste di argomenti scottanti come la tratta delle bambine in Benin, oppure il problema dell'AIDS in Swaziland, sempre in Africa, e altre questioni italiane, il viaggio dentro la vita degli operai a Mirafiori, e quindi viaggi un po' particolari, sì, diciamo, sì. Però sempre viaggi sono, perché sono viaggi di inchiesta nell'attualità. Certo. Per tornare invece al mio documentario Tra Samarcanda e l'West, diciamo che la cosa importante da segnalare è il fatto che in questo documentario si capisce abbastanza bene che l'assenza di politica estera da parte dell'Europa unita ci ha lasciati fuori, diciamo, da questo nuovo grande gioco che c'è in Asia centrale, il fatto di non aver ancora riconosciuto in maniera efficace la Turchia come il vero principale partner di quell'area prossima, diciamo, all'Asia centrale. Ci mette sempre in una situazione di difficoltà, perché noi avremmo oggi, se 15 anni fa avessimo aperto davvero la Turchia, avremmo oggi la possibilità di contare qualcosa in quell'area, di poter come dire, pagare meno la nostra energia, e non solo questo, ma anche di poter magari dire qualcosa di più efficace anche in tutto quello che si sta muovendo, come ben sai, tra Siria, Turchia. Certo. Però in quel caso una componente fondamentale è stata quella del problema dei diritti umani e della questione curda nello specifico, insomma. Sì, però la questione curda in parte era stata risolta, la questione dei diritti umani rispetto alla pena di morte sono da ormai credo 17 anni che non c'è più un'esecuzione in Turchia, laddove noi abbiamo tranquillamente non solo scambi commerciali ma grandissima vicinanza con la Cina, dove peraltro i diritti umani però non certo, è che siano ben tutelati, diciamo. Certo, soprattutto quelli dei lavoratori. Senti Alessandro, appunto, per saperne di più sul tuo lavoro? Per vedere il documentario attualmente è stato presentato chiaramente al Festival del Viaggio di quest'anno, però adesso attualmente in rete sul sito web dell'Unità, e quindi lì si può vedere il documentario Tra Samarcanda e l'West. Quello è, per il resto diciamo che tutte le informazioni sulle nostre attività sono reperibili sul sito web societadeiviaggiatori.org. A risentirci presto Alessandro, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Alessandro Agostinelli, regista del documentario Tra Samarcanda e il West. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. E ritroviamo Gianfranco Pannone in quest'oggi in veste di curatore del workshop Raccontare il territorio all'interno della quarta edizione del FIDRA, Festival Internazionale del Reportage Ambientale, che si svolge ad Arenzano, in provincia di Genova, da oggi fino al 24 novembre. Gianfranco, benvenuto, ben ritrovato. Ciao, ciao, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, raccontaci un po' di questo festival, non ne abbiamo mai trattato in trasmissione, nello specifico del workshop che terrai. Sì, sì, è un'esperienza molto interessante, che è un po' scaturita da un film che ho fatto recentemente, che Scoglie in libertà, film sulla storia del nucleare italiano, ma non solo, sulle nostre servitù industriali, sulla scellerata politica energetica o quantomeno schizofrenica dell'Italia dopo guerra ad oggi, che implica ovviamente delle questioni ambientali, per cui evidentemente Antonella Sica, che presiede, che è anche direttrice del Genova Film Festival, ha pensato così di invitarmi a fare un workshop in cui racconto il rapporto tra cinema documentario e territorio, prendendo in esame i tre film documentari che ho dedicato alla Latina, che è la città dove sono cresciuto, Piccola America, Latina Vittoria e appunto Scoglie in libertà, che è il lavoro più recente, insomma, ecco. E credo che sia una cosa interessante oggi porsi dei problemi su come collocarsi noi esseri umani in questo mondo che abbiamo ridotto abbastanza a pezzi. Mi sembra una cosa importante, perché Scoglie in libertà è partito proprio dal Festival Cine Ambiente di Torino, e ha avuto la prima internazionale. Mi fa piacere che ancora oggi, insomma, attraverso altri festival possa essere utile, non dico alla causa dell'ambientalismo, a fare due chiacchiere su cosa significa appunto essere in questo mondo che abbiamo messo abbastanza in ginocchio. Senti, c'è un'aria di primavera, sembra di stare adesso ad aprile, maggio, sì. non a novembre, anche questi cambiamenti climatici e queste strane intemperanze del tempo devono farci riflettere. Senti Gianfranco, quali sono, visto che insomma ne stai per trattare nel tuo workshop, i punti fondamentali del rapportarsi al territorio e raccontarlo? Ma innanzitutto, secondo me, il rapporto col territorio lo si racconta attraverso il rapporto con l'altro, con le persone che vivono un territorio. Questo secondo me è fondamentale. Cioè, quando io faccio i miei documentari, in qualunque zona vada, mi piace in qualcosa incontrare l'altro. Come dice Vinicius de Moraes, amico, la vita è l'arte dell'incontro, che insomma sembra che uno scherzo, ma non troppo. È così, non mi piace parlare in astratto, non mi piacciono quei documentari dove la voce fuori campo ti dice così e così e così. Mi piace creare un rapporto e raccontare una storia o delle storie. Quindi questo secondo me è la condizio sine qua non, insomma, che comporta inevitabilmente un rapporto alla pari col testimone. Come dice Nicolas Philibert, grande regista francese, non faccio un film su, ma faccio un film con. Mm-hmm. E questo secondo me è una cosa importante in un documentario. Sì. Quindi siamo un po' lontani dalla visione muriana, diciamo così, insomma, non sono uno che va a tesi, pur ammirando moltissimo Michael Moore, riesco invece a raccontare la complessità del reale. Per fare questo è necessario un lavoro di indagine, innanzitutto, di indagine sulla realtà. Non è sbagliato pensare di andare subito con la telecamera o la cinepresa e girare, ma è importante cercare di capire chi sono le persone che abitano in quel luogo, come si muovono, perché fanno determinate cose. Ogni fenomeno ha una sua complessità e va valutata volta per volta. Mm-hmm. C'è mia figlia che mi sollecita qua vicino e deve comprare un quaderno. La realtà incombe sempre, come al solito. Allora, velocemente, Gianfranco, l'ultima volta... No, non ti preoccupare. L'ultima volta che ci eravamo sentiti ci avevi anticipato anche un lavoro che poi hai presentato qui al Festival di Roma, Ebrei a Roma, c'è stata la presentazione a Roma, e allora dici un po' di questa ultima produzione, che in realtà non è ultima. Sì. No, è l'ultima che ho fatto, perché Scoglie in libertà è la penultima, l'ultima appunto è per Roma. È un periodo, come dire, per me di grande vitalità, forse anche di nevrosi, per cui forse queste cose magari posso confondere quelle poche persone che mi seguono. Ma no, niente, è un documentario su cui ho lavorato abbastanza, deve essere pronto un pochettino prima, è arrivato adesso, ha presentato la Festival di Roma, è stata una proiezione magnifica. Purtroppo sono rimaste fuori molte persone, da un lato uno se ne può anche vantare, ma da un lato invece è un dispiacere. Però insomma è stato un successo inaspettato, perché c'era anche il giudizio della comunità ebraica in agguato, sono abbastanza complessi, giustamente anche complessi, quindi ero curioso e anche un po' impaurito di sapere il loro giudizio. In realtà Ebrei a Roma è un documentario, appunto anche qui sono importanti le persone, il racconto della comunità ebraica tra passato e presente, vista però attraverso tre persone che la vivono oggi, tre generazioni diverse. E quindi è un ritratto di una comunità ebraica estremamente vitale, dove sullo sfondo ci possono essere problemi come la Shoah o quello appunto di Israele e Palestina che ben conosciamo in questi giorni, ma fondamentalmente c'è la vita quotidiana della gente che vive in quello che ancora loro stessi chiamano ghetto e che è un po' il punto di riferimento, ma c'è anche la vita, che ne so, degli ebrei tripolini che dal 69 vivono con comunità di diverse migliaia di persone a Roma. È una realtà importante che secondo me meritava di essere raccontata ed è stata un'esperienza molto forte, devo dire, sul piano emotivo ma anche della riflessione, insomma, perché gli ebrei hanno una loro cultura straordinaria che a volte ci fa capire quanto noi invece ci dimentichiamo delle nostre culture. Cioè loro, anche per difesa storica, hanno una tendenza in qualche modo a valorizzare quello che hanno, quindi i riti, la famiglia, ma non parlo solo della dimensione religiosa, anche laica. Senti, e per ecco, dove sarà dopo il Festival del Cinema? Ma il film è coprodotto con Rai Cinema, quindi stiamo aspettando quale rete Rai ci metterà in onda. Io spero, sto puntando molto su una messa in onda il giorno della memoria, perché il giorno della memoria è il giorno in cui bisogna raccontare anche la vita, ovviamente non dimenticando la Shoah. Il giorno della memoria è il 27 gennaio prossimo, e poi uscirà in un video, un po' circolerà anche probabilmente nelle scuole Lazio, grazie alla provincia di Roma, e insomma si farà qualche festival, ma la cosa importante è che se non televisiva è uscita un video, che saranno rispettivamente in inverno e nella primavera prossima. Ecco, rispetto anche alla tua sensibilità, il modo in cui hai, il modo che hai di affrontare le cose che vai a filmare, tra l'altro noi poco prima della trasmissione abbiamo avuto una bella chiacchierata con Monio Vadia, ecco, rispetto chiaramente l'attualità è Gaza, volevo chiederti se cos'era uscito rispetto al conflitto israelo-palestinese. Raccontare in Ebrei a Roma il conflitto israeliano-palestinese sarebbe stato molto molto complicato, sì. Però a me piace molto separare, tu hai detto ebreo-palestinese, io dico israeliano-palestinese, benché poi a volte siamo responsabili, no, ho detto israelo-palestinese, anche taluni ebrei che giocano molto sul fatto di confondere ebraismo e Israele, sono due cose secondo me separate, e che ovviamente non separate creano una serie di problemi di comprensione, per cui tante persone mi hanno chiesto in questi giorni, cioè, tu hai fatto ebreo a Roma, Come ti collochi con? Io credo in una Palestina paese libero, però allo stesso tempo ritengo anche che la faccenda sia molto più complessa di come noi la vogliamo vedere o ce la fanno sentire. Lì c'è un processo che dura da decenni, ha creato delle incrostazioni terribili. Ci sono due generazioni, secondo me, sia dal punto di vista degli israeliani che dal punto di vista dei palestinesi, che sono quasi bruciate, perché sono vissute in un clima di guerra, di odio. Mi è capitato di stare nell'ultimo anno due volte in quella che io chiamo Israele-Palestina Terra Santa da credente, e due volte sono tornato anche sconcertato, anche arrabbiato. Magari vai ad Hebron e ti accorgi che la città è stata evacuata dagli israeliani e non accetti tutto questo, perché questo va a scapito di migliaia di persone, rovini un'economia, ma rovini anche una socialità e anni e secoli di convivenza, peraltro. Fa molto arrabbiare andare in questa terra, sicuramente, però non sono disposto a dire tutto e per tutto su una parte o sull'altra. Per esempio, ritengo che non condivido per nulla il modo di agire di Hamas, cioè ritengo che loro in qualche modo diventino speculari ai peggiori conservatori israeliani e alimentano ancora di più un conflitto che è quasi ingovernabile. Quindi sono per un discorso di pace, chiaro, bisogna togliere l'embargo a Gaza, bisogna probabilmente appunto accettare, fare di Gerusalemme una città libera, tante cose di cui si parla per tanto tempo, ma non sono disposto a condannare a priori gli israeliani o come si dice gli ebrei, perché secondo me è molto pericoloso e perché esistono tante anime dell'essere israeliani, c'è anche una sinistra straordinaria, ci sono registi straordinari come Avimo Grabi, per esempio, ma ce ne sono tanti altri che da anni dicono la loro coraggiosamente su cosa, su come Israele si deve collocare in quel piccolo territorio come nel mondo. E quindi invito a fare un ragionamento anche meno ideologico, sebbene sia molto difficile riuscire a essere tranquilli rispetto a talune anche violenze degli israeliani. La faccenda è molto molto molto molto più complessa. Bene Gianfranco, allora ci sentiamo presto, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te. Ciao. Grazie per lo spazio. Ciao. che mi hai dato. ciao, a presto. Ciao ciao. Gianfranco Pannone, curatore del workshop Raccontare il territorio al quarto FIDRA, Festival Internazionale del Reportage Ambientale ad Arenzano in provincia di Genova, e anche autore del documentario Ebrei a Roma, presentato all'ultimo festival del cinema qui a Roma. Mentre ci mettiamo in contatto con Paola Piacenza, vi ricordo i nostri contatti, il numero per gli sms 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica per inviarci email è visionari@ondarossa.info. Questo è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 su Radio Onda Rossa. Come annunciato, Paola Piacenza, regista del documentario In uno Stato Libero, appena presentato ad un festival, vero Paola? Sì, è appena passato al Festival dei Popoli a Firenze e sta per passare a Filmmaker a Milano il prossimo 9 dicembre. Bene, allora siamo in perfetta, ci collochiamo tra i due festival, quindi ci sarà modo di recuperarlo per chi l'avesse perso a Firenze e vederlo a Milano. Sì, è il film di chiusura del Festival di Milano, che è un festival abbastanza straordinario, quest'anno ha un programma ricchissimo, lo consiglio. Credo che sì, ne parleremo dal 30 novembre. Sì, credo che giovedì prossimo lo affronteremo come festival. Bravi. Senti Paola, qual è lo stato libero del titolo? È la condizione in cui si trovano per la prima volta i protagonisti di questo documentario che ho girato in Tunisia nel corso del 2011, a partire dai primi giorni dell'anno, quelli che hanno coinciso con la rivoluzione che ha portato all'eliminazione dalla scena del dittatore Ben Ali, fino all'ottobre, quando si sono svolte le prime elezioni libere, quelle che hanno portato all'elezione dell'Assemblea Costituente, che sta tuttora lavorando a un progetto di Costituzione, quindi anche di legge elettorale, e che dovrebbe alla fine determinare una data che più o meno c'è per le prime elezioni parlamentari del Paese, che sarà secondo me intorno a giugno, avrebbe dovuto essere a febbraio del 2013, ma secondo me non ce la faranno, insomma sono un po' in ritardo. Mm-hmm. Ecco, i tre protagonisti di questo film sono tre giovani che vivono al sud della Tunisia, nella parte più trascurata, più negletta, più tradizionalista, più religiosa, più povera del paese, al confine con la Libia. Ed erano sono tre ragazzi che hanno avuto nell'immediatezza dello scoppio della rivoluzione un'idea molto bella, quella di creare una web TV proprio con un intento inizialmente di servizio, quello di fornire informazioni sulla rivoluzione ai loro concittadini. Sì. Perché nel sud, a parte insomma, sotto la dittatura gli organi di stampa ufficiali erano tutti molto collusi con il regime, quindi di informazione libera ce n'era poca, ma comunque riguardava sempre il governo centrale e la capitale e le zone più meno trascurate del paese. Del sud non si occupava nessuno, nemmeno con quella cattiva informazione che c'era al tempo, e quindi hanno cominciato con quest'idea, se non che poi la storia li ha veramente travolti, perché da luogo negletto il sud è diventato un crocevia di uscite e di entrate, perché dalle spiagge di Zarzis, che è la città dove loro vivono, hanno cominciato, quando il dittatore se n'è andato e le frontiere si sono aperte, hanno cominciato a partire a partire da un'intera generazione di tunisini verso Lampedusa, ci ricordiamo, verso Lampedusa e l'Europa, ci ricordiamo insomma degli sbarchi di quella primavera e di quell'estate, e hanno cominciato ad entrare dal confine libico, che era a brevissima distanza, i profughi, perché nel frattempo era scoppiata la guerra civile in Libia. E quindi Sardis è diventato veramente un centro nodale, sono sbarcati per la prima volta i grandi network internazionali, e questi giovani aspiranti reporter, questi citizen journalist che avevano fatto un lavoro un po' così dilettantesco, in realtà si sono trovati a rivestire un ruolo importantissimo nei confronti dei loro concittadini, i quali si fidavano di loro moltissimo per l'accuratezza del lavoro che facevano sulla loro web TV, addirittura chiedevano a loro se fosse bene parlare con France 24 oppure con Al Jazeera, quando appunto i grandi network chiedevano le interviste ai cittadini per i loro reportage. Tra l'altro loro hanno compiuto un importante scoop che ha costretto nei primi mesi della post-rivoluzione, che ha costretto la televisione di Stato a fare una clamorosa marcia indietro, perché nel momento in cui hanno la marina militare tunisina ha abbordato e speronato una nave di migranti che stava partendo alla volta di Lampedusa in acque internazionali, facendo moltissimi morti, la televisione di Stato ha rubricato la cosa come incidente. I ragazzi, intervistando i sopravvissuti e le famiglie degli scomparsi, hanno invece denunciato la vera natura di quello che era stato l'incidente, ovvero un tentativo di creare un deterrente per queste partenze che erano diventate veramente molto molto massicce, e questo li ha resi ancora più importanti, quasi degli eroi agli occhi dei loro concittadini, ha creato per loro uno status importantissimo nella loro piccola città, e ha fatto nascere in loro delle speranze molto grandi che hanno coinciso in larga misura con la fiammata rivoluzionaria, con quell'impeto entusiasta, quell'aspirazione a tutte quelle libertà che fino a quel momento erano state negate. Quindi il mio andare e filmare il loro il progredire della loro avventura, diciamo, professionale e umana, anche nelle relazioni tra di loro, ha registrato tutti questi cambiamenti, dall'entusiasmo iniziale al tentativo poi di fare un salto, diciamo, nella direzione di una professionalità, un tentativo che poi è drammaticamente fallito, fino a quando le differenze clamorose, che sono poi risultate evidenti anche al momento delle elezioni, perché si sono schierati tutti e tre per tre su tre posizioni drammaticamente diverse, non ha reso la loro unione inconciliabile, impossibile, e adesso insomma questi ragazzi si sono separati, e questo esperimento di web TV, che adesso viene portato avanti malamente da uno solo dei tre, si è chiuso, insomma ha veramente coinciso con il processo della rivoluzione. Da quanto però mi dici, quell'esperimento ha avuto un vasto seguito, e ti volevo chiedere anche, la popolazione in qualche modo contribuiva attivamente alla formazione delle, non so, delle notizie o comunque dell'individuazione di fonti per il loro lavoro? Sì, essendo loro così, erano conosciuti da tutti, non è come quando un reporter, un inviato arriva in un luogo e attraverso, deve cominciare a tessere una rete di contatti, attraverso uno stringer, un fixer, incontra qualche notabile e poi comincia a cercare di comprendere la realtà. Tutto questo per loro era già acquisito, erano parte integrante della società che raccontavano, e questa è stata la ragione della mia scelta, perché quello che a me interessava, il mio sguardo si sarebbe sovrapposto, insomma, come uno sguardo esterno e straniero in quel contesto, quello che a me interessava, visto che loro facevano la stessa cosa che facevo io filmavo e loro filmavano, io cercavo di capire la realtà e anche loro cercavano di capire la realtà che gli stava cambiando davanti agli occhi. Quindi per me era importantissimo usare loro come filtro, stare un passo indietro a loro. E attraverso di loro che entravano così fortemente dentro la realtà, entrare con loro. Quindi molti degli accessi che a me sarebbero stati negati in quanto straniera, anche per luoghi pericolosi, insomma, noi siamo riusciti a filmare delle situazioni con i trafficanti che organizzavano i viaggi dei migranti, oppure alla frontiera con la Libia durante una delle fasi più calde della guerra civile in Libia. Ecco, io sono potuta arrivare lì soltanto grazie a loro. Ci sarei arrivata probabilmente lo stesso, ma sarei dovuta stare molto più fuori. L'essere con loro mi rendeva invisibile parte del paesaggio, parte dell'arredamento e così mi insinuavo, ed è stato veramente una possibilità inedita, molto, molto speciale, per riuscire a raccontare una realtà in così rapido e improvviso cambiamento. Senti Paola, oltre all'occasione di Milano, del Festival a Milano, il tuo documentario poi dove sarà fruibile? Potrebbero esserci degli altri festival, a me piacerebbe molto portarlo in Medio Oriente, mi piacerebbe, anzi lo farò sicuramente, lo porterò a Zarzis, perché tutte le persone che sono nel film hanno diritto di vedere quello che è risultato della loro disponibilità, apertura e dei loro sforzi. Se poi avrà una distribuzione più normale, io questo faccio molta fatica a prevederlo, perché purtroppo per il documentario gli spazi in Italia sono pochissimi. Potrebbe avere prima o poi un destino online, che mi sembra anche molto naturale proprio per la storia che racconta, ma credo sia ancora presto, bisogna lasciare che un film faccia un po' la sua vita e poi insomma che venga consegnato anche a delle piattaforme magari che lo distribuiscono in maniera più capillare. Per ora è proprio agli inizi, è appena nato. Ci terrà informati allora. Certo. Un abbraccio e a presto Paola. Grazie a voi, a presto. Ciao. Paola Piacenza, regista del documentario In uno stato libero. Continuiamo a parlare di documentari, lo facciamo con una storia italiana questa volta. Torniamo ad avere con noi Paolo Pisanelli, in questo caso regista del documentario Storie di Taranto. Paolo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, Storia di Taranto è un titolo provvisorio, ma insomma sto a Taranto da agosto, ho cominciato a girare e a filmare gli eventi pubblici, quello che succedeva in questa città così particolare e così in crisi, no? Una città proprio sull'orlo di un collasso, in pieno disastro ambientale, quindi penso che così stare qua a Taranto è un po' come... E anche un po' raccontare l'Italia, no? Perché certo. queste storie riguardano molte città in Italia. Allora, la forbice sostanziale è quella rispetto alla questione chiaramente fondamentale dell'Ilva di Taranto, la forbice tra salute e lavoro. Ecco, cosa ci dici in proposito, Paolo? Beh, io così, un po' la bellezza di andare in un posto che non conosci, perché io sono... Pugliese, di Lecce, ma fondamentalmente Taranto non l'ho mai frequentata molto. Secondo me la bellezza è anche un po' perdersi, no? Andare per le strade, nella città vecchia, il quartiere Tamburi, e incontrare le persone. E io ne ho incontrate parecchie, ora sto a Taranto, in Piazza Fontana, e queste persone comunque veramente c'è una conflittualità molto forte in questa città. Anche tra operai e operai, tra sindacato e sindacato. E poi fondamentalmente c'è il partito di quelli che dicono di tal Sider, sì, si è inquinato, però si è portato da mangiare, e molti che invece ormai anche operai stessi, che come quelli del comitato dei cittadini liberi cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che dicono che a questo punto invece bisogna pretendere che venga risanata questa città dalla proprietà di Tommy Riva, ma che è anche lo stesso Stato italiano che, voglio dire, l'ha regalata al gruppo Riva nel 95, la fabbrica. Quindi è una situazione molto complicata, però io non soltanto vado a cercare queste storie che sono a volte anche molto drammatiche, perché qua c'è una percentuale di tumori altissima, stanno morendo tantissime persone proprio per gli effetti di questo inquinamento da diossine e da un cocktail di veleni pazzesco. Però insomma, la mia idea è anche quella di recuperare un po' i luoghi della bellezza di Taranto, una bellezza perduta, però anche la bellezza che c'è, che sono dei luoghi bellissimi. Oggi siamo stati con due allevatori di cozze sotto il ponte Punta Penne, proprio dove si uniscono i due segni del Mar Piccolo, è un posto veramente bellissimo. Che purtroppo poi all'orizzonte vedi la fabbrica che sbuffa, vedi le nuvole di smog, cioè non si riesce a capire come si è potuto pensare di promuovere un industrialismo, uno sviluppo industriale così scellerato, così come è stato fatto. E purtroppo, insomma, fino a oggi più o meno tutti sono stati un po' zitti, con gli occhi chiusi, non tutti, ma insomma solo ora esce fuori con potenza, diciamo, il caso Taranto, perché evidentemente si è arrivati a un punto non più sostenibile per la salute delle persone. Senti, quali prospettive hai respirato vivendo da qualche mese a Taranto, Paolo, rispetto, ecco, agli incontri che hai avuto, quali sono i punti di vista sul prossimo futuro? Beh, tutti dicono che l'Ilva mollerà tutto se ne andrà, per lasciare questa situazione così disastrata, perché qua per risanare ci vogliono miliardi e miliardi, si parla di 13-14 miliardi di euro, quindi insomma un po' la situazione, beh, anche molto di paura, perché ora ci stanno questo incubo, no, di licenziamenti, cassa integrazioni. Però è anche vero che sento anche una forza nuova nelle persone, anche spessi operai che dicono, insomma, non si può sempre chinare la testa e andare avanti. Io penso che qua debba scoppiare proprio una rivoluzione, anche una rivoluzione nel modo di pensare, perché non si può vivere in questo modo e non si può vendere un territorio così bello, no? Per che cosa poi ti ritrovi quando, finché non vieni toccato dai lutti, dai drammi, uno si va avanti, poi dopo, quando la gente viene toccata, poi ci ripensa. Io spero che non si debba sempre arrivare, no, all'evento drammatico per mandare avanti le cose, ci vuole più partecipazione, questo è quello che chiedono anche a nelle assemblee il Comitato dei Cittadini e Lavoratori. Ci vuole che la gente ricominci a capire che bisogna darsi da fare, che bisogna partecipare, che non si può delegare dei politici che poi si sono rivelati in tutta Italia molto corrotti. Ecco. Faranno lo specchio dell'Italia, però insomma è il caso che le persone oneste che comunque vogliono cambiare indirizzo rialzino la testa e aprano gli occhi. Ecco, proprio in questo senso, Paolo, visto che hai citato il comitato, volevo chiederti se ci sono comunque spinte all'auto-organizzazione da parte dei singoli cittadini oppure di gruppi di cittadini. Sì. Sicuramente ci stanno, cioè il 2 agosto è entrato in campo questo comitato e anche con una protesta rispetto agli altri sindacati che hanno sottoscritto accordi che loro non condividevano. Penso che però, ecco, c'è una conflittualità molto forte, anche a volte vedi manifestazioni anche molto belle, c'è stata una ai tamburi con una prima fila di bambini, bellissima. però spesso magari vedi per la morte dell'operaio di Claudio Martelli, il MOF, che poi alla fine c'era poca gente, insomma questo un po' è triste, quindi bisognerebbe sforzarsi di mettere insieme tutte le forze, di tutte le varie organizzazioni ambientali, politiche, operai, sindacali, niente, insomma, comunque diciamo, in questo è veramente specchio dell'Italia, anche l'incapacità un po' di fare politica, o comunque della voglia di ricominciare, ecco, che si sente da molte parti. Da un lato l'incapacità, perché per anni non si è fatta più politica, non si è più parlato, ognuno è stato nel suo, e dall'altra una voglia di ricominciare che spero, insomma, diventi forte. Senti Paolo, allora il tuo lavoro è stato presentato al Festival dei Popoli di Firenze, quando avrà un titolo definitivo ci farai sapere dove sarà possibile vederlo. Io nel frattempo cerco le risorse, perché a volte prima comincio a girare e poi dopo penso, ma come faccio ad andare avanti? No, sicuramente bisogna trovare le risorse, però è una sfida importante, interessante, e poi bisogna esserci, perché poi non è che si possono ricostruire come un film di finzione queste cose, bisogna esserci, e quindi spero che dopo questa trasmissione numerosissimi produttori visti e pimpanti mi contatti. Nel frattempo d'abbraccio allora c'è Big Sur che produce con Officina Visione. Nel frattempo d'abbraccio scusa, anche la Puglia Film Commission ha dato un contributo, questo bisogna dirlo. Bisogna dirlo. Sì. T'abbraccio e a risentirci presto Paolo. Un abbraccio a te, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Paolo Pisanelli, regista del documentario dal titolo provvisorio Storie di Taranto. Adesso si parla di LGBT. Un attimo. Siamo al telefono con Giovanna Calisti dell'associazione Armilla, organizzatrice della terza edizione del Queering Roma, festa del cinema LGBTQ alla Casa del Cinema, quindi qui a Roma dal 23 al 25 novembre. Giovanna, ben trovata. Buonasera a tutti, ben trovato, grazie veramente dell'ospitalità della vostra trasmissione. Allora, chiaramente per chi ci ascolta e non è detto che sappia, LGBTQ, fai tu la spiegazione di cosa sta a siglare. Assolutamente, è una lunga sigla che sta per persone lesbo, gay, bisex, trans e queer, dove queer è un termine ombrello che racchiude la realtà multiforme e anche multicolore, appunto, di tutti coloro che trovano la definizione della propria identità sessuale in una maniera un po' più complessa che non quella strettamente per forza etero. Allora Giovanna, diciamo, benissimo, sei stata sintetica ed esaustiva. Allora, terza edizione, come sta crescendo questo festival? Questo festival sta crescendo e sta cambiando anno dopo anno. Quest'anno siamo per la prima volta alla Casa del Cinema, nella cornice meravigliosa di Villa Borghese, e casualmente siamo quasi in coda all'ufficiale Festa del Cinema di Roma, che è l'unico festival in Europa a non avere ancora al suo interno una sezione queer, e neanche a farlo apposta il nostro festival viene immediatamente dopo il festival ufficiale del cinema di Roma. Giustamente. Stiamo crescendo perché credo che la città di Roma via via nel corso degli anni, questo è il terzo, stia riconoscendo sempre di più la presenza del nostro festival, ma in generale di questa cinematografia. Mm-hmm. Cresciamo anche perché quest'anno Queering Roma non è soltanto cinema, ma è anche letteratura, con due incontri che facciamo a cura di Francesco Gnerre sulla letteratura gay. Facciamo una panoramica quest'anno con la presentazione di tre libri e quindi l'incontro con altrettanti autori, e quest'anno Queering Roma è anche arte e fotografia. Abbiamo due mostre, Gender Utopia e C'era una volta l'occhio, l'orecchio e la bocca, che aprono insieme con il festival domani sera alle ore 19, ma rimarranno alla Casa del Cinema anche oltre il festival fino al 10 di dicembre. Giovanna, e questa è la nostra. Per quanto riguarda più strettamente chiaramente l'aspetto cinematografico, sì. quante sono le opere che presenterete e di quale provenienza? Allora, sono circa 20 blocchi, diciamo, li chiamo così perché alcuni blocchi sono composti da più pellicole all'interno, lungometraggi, cortometraggi, documentari. La provenienza è veramente vasta e varia. La nostra intenzione sin dalla prima edizione è quella di offrire veramente una finestra sul mondo della cinematografia LGBTQ. Quindi abbiamo pellicole italiane, ma abbiamo anche contributi dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Indonesia, da Cuba. Noi presenteremo Verde di Enrique Pineda Barnett, che è il primo film prodotto a Cuba a tematica omosessuale, e quindi siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire uno sguardo così ampio. Tutti i film sono proposti in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Giovanna, quali sono i temi principali che avete notato in queste opere che presenterete rispetto alla questione LGBTQ? Allora, sicuramente vengono affrontate attraverso storie di taglio molto diverso tra loro i temi che informano la vita delle persone lesbo, gay, bisex e trans, e dai temi più difficili e più duri, che sono quelli relativi ai diritti, per esempio, e alla mancanza dei diritti anche basilari di espressione di sé e della propria identità. Su questo c'è un film turco bellissimo che proiettiamo nella giornata di sabato, che è Jenny Dancer, per esempio, che apre uno spaccato importante su questo tema. E la crisi del modello familiare tradizionale, affrontato anche con ironia nel film che apre la rassegna, che è The Perfect Family, e che riproponiamo anche domenica mattina nella matinée, che è anche una delle novità di quest'anno. Parliamo molto anche della necessità e della meraviglia della trasformazione nelle storie delle persone transessuali, e abbiamo due sguardi diversi. Uno è il documentario Film Trans, che è una produzione statunitense, e invece The Lovely Man, che è un film estremamente poetico indonesiano e che ci dà tutto anche un altro sguardo e un'altra lettura di questo fenomeno. E in particolare mi faceva anche piacere dire che vogliamo dedicare l'edizione di quest'anno più che mai alle vittime dell'omofobia. Oggi in particolare, questa sera ci sarà una fiaccolata a Roma al Colosseo che ricorderà proprio questo tema così forte e così tragico, anche alla luce purtroppo di ciò che è accaduto a Roma pochi giorni fa, e quindi mi faceva piacere, certo, ricordarlo e dire che per noi, diciamo, nel nostro piccolo, il modo di combattere l'omofobia è attraverso la cultura e anche l'impegno, quindi, a far conoscere storie. Bene, Giovanna, allora dacci riferimenti internet per quanto riguarda la programmazione della terza edizione di Queering Roma, e poi ci salutiamo con in bocca al lupo. Assolutamente sì, allora trovate tutto sul nostro sito internet, che è www.queeringroma.it. Abbiamo anche una pagina Facebook attivissima, ci trovate come Queering Roma, e siamo live alla Casa del Cinema da domani 23 fino a domenica 25 novembre. Un grazie. Abbraccio e a presto, Giovanna. Un abbraccio a te, grazie. Ciao, ciao. Giovanna Calisti dell'Associazione Armilla, organizzatrice della terza edizione di Queering Roma, festa del cinema LGBTQ. Casa del Cinema, 23-25 novembre. Cosimo Santoro, per quanto riguarda The Hope and Reel, agenzia di sostegno e sviluppo della cinematografia, soprattutto LGBT. Ci sei, Cosimo? Sì, eccomi, buon pomeriggio. Benvenuto. Ciao. A Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, raccontaci un po' di questo esperimento, di questo progetto Open Reel. Sì, di Open Reel è un'agenzia appena nata, in realtà abbiamo inaugurato il sito proprio giovedì scorso, che si occupa di promuovere film indipendenti di diverso formato, lungometraggi, che cortometraggi, che documentari, con particolare attenzione, come dicevi tu, alla realtà LGBT, sia a festival e sia per le vendite in Italia e all'estero. Per adesso nel nostro listino una ventina di titoli scelti tra insomma, con cui nelle mie precedenti esperienze professionali ho avuto a che fare, sono le cui puntiamo e che pensiamo possano avere insomma un futuro abbastanza importante nel mondo del cinema. Ci sono per adesso due lungometraggi, un progetto di produzione che in realtà stiamo terminando, perché comunque tra le nostre attività c'è anche il film che insomma necessitano degli ultimi fondi per poter essere realizzati, e poi tanti cortometraggi, dei documentari. Insomma, questo grosso modo è il contenuto iniziale insomma di questa prima fase di Open Reel. Senti Cosimo, in che ambito geografico vi muoverete? Ma noi in realtà operiamo su tutte le realtà geografiche possibili. Per adesso il nostro listino si compone di titoli sia italiani, per esempio mi fa molto piacere avere l'ultimo film di Peter Marcias, Dimmi che destino avrò, che sarà al Festival di Torino tra qualche giorno, nella sezione Festa Mobile, però insomma ci sono anche registi che arrivano da altri paesi come la Spagna e il Portogallo. Ovviamente ci sono territori che da sempre un po' interessano le nostre attività, che sono l'Asia e il Sud America, quindi questo non è escluso che in futuro ci siano registi che provengano anche da queste realtà insomma cinematografiche. Ovviamente un'attenzione particolare non la diamo soltanto alle tematiche LGBT, ma la diamo anche ai registi italiani che in questo momento faticano insomma con le loro produzioni totalmente indipendenti a trovare uno staff di supporto che possa spingerli insomma nella circuitazione ai festival e nel tentativo di poter vedere insomma i loro film distribuiti in qualche modo. Ovviamente quando si parla di cinema indipendente è sempre molto difficile parlare di theatrical, quindi di uscita in sala, ma perlomeno di distribuzione in video o anche in video on demand, quindi in VOD. Sì. Senti, quali sono i criteri, oltre a quello dell'indipendenza, che vi guidano per la scelta di autori e titoli? Ma da un certo punto di vista sicuramente i contenuti, nel senso che avendo noi un occhio di particolare attenzione, ma questo anche legandolo alle mie esperienze precedenti, per le tematiche LGBT ovviamente lavoriamo nell'ambito di questa tipologia di produzioni, ma senza dubbio ci interessano anche altri generi. Una particolare attenzione la diamo anche a quei formati, insomma a quelle produzioni ibride che sappiano mescolare un po' un cinema narrativo anche ad un cinema più ampio, fatto di linguaggi diversi, quindi non vorrei dire sperimentale, perché insomma è una parola che oggi non tanto credo abbia più senso, però che comunque sappiano mischiare la narrazione con la videoarte o con forti riferimenti provenienti da altri linguaggi, quindi la fotografia, la musica, il teatro. E un altro criterio forse è quello di scegliere un cinema personale, cioè dove il regista mette in primo piano le proprie esperienze private, raccontandole magari qualche volta anche sotto forma proprio di diario personale. Bene, allora, oltre al fatto che vi seguiremo con interesse, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più sul progetto? Sì, certo, il sito è appena nato ed è www.dopenreel.com. Bene Cosimo, un abbraccio e a presto. Grazie mille, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti. Ciao. Bene, è tutto per quanto riguarda Visionari di quest'oggi. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. I riferimenti per comunicare con noi: il numero di SMS è 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo.